America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Chancellor Merkel, it is a great honor to welcome you to the People's House, the White House. Our two nations share much in common, including our desire for security, prosperity and peace. Donald Trump, Donald Trump ha mandato un messaggio naturalmente di congratulazioni alla signora Merkel, ma sappiamo che fra i due non corre buon sangue. E cosa è successo? Che il risultato elettorale in Germania è preoccupante sotto un certo punto di vista per gli Stati Uniti, perché sul piano economico indebolisce la Merkel e dunque è difficile che nel breve possa davvero materializzarsi quel piano per una maggiore integrazione economica e fiscale in Europa, cosa a cui l'America tiene molto perché ritiene che questo possa far crescere l'Europa più rapidamente e dunque fare da traino per l'economia americana. Dall'altra, in qualche modo, l'indebolimento della Merkel preoccupa perché c'è un fronte aperto anche con la Russia, c'è la necessità di avere un'alleanza transatlantica forte, però sappiamo anche che Trump, tutto sommato, strizza l'occhio a coloro che sono più nazionalisti e populisti. E dunque, da parte del presidente americano, che molto spesso è un po' confuso su queste tematiche, chissà, magari sotto sotto ci sarà un apprezzamento per questi risultati che hanno anche rafforzato il partito della destra xenofoba in Germania. Ho con me ai microfoni di America 24 per parlare proprio di questa tematica chiave nel post elezioni tedesche Paolo Valentino, che è stato corrispondente da Berlino per molti anni per il Corriere della Sera, è stato corrispondente da Washington e dunque conosce a fondo non solo i due paesi ma anche le personalità che guidano questi due paesi, perché le ha conosciute direttamente. Paolo, buongiorno. Buongiorno Mario. Allora, intanto un risultato un pochino a sorpresa, cioè al di là di quello che potevano pensare coloro che immaginavano un'evoluzione più europeista della Germania. No, un risultato sicuramente a sorpresa, perché la cancelliera ne esce indebolita. Credo che lei avesse preventivato un minimo di perdite per il suo partito, la CDU, ma non aveva assolutamente messo in conto una perdita di oltre il 7% dei voti, che lascia la CDU molto indebolita, anche se ovviamente rimane il primo partito. C'è un problema di desertificazione politica, perché la Merkel non c'ha più molte opzioni per governare, anzi di fatto ne ha una sola, visto che i socialdemocratici hanno detto che loro di grosse coalizioni, cioè di alleanza con la CDU, il partito della Merkel, non vogliono più sentir parlare, e quindi l'unica chance per formare un governo è quello di imbarcare i liberali e i verdi, la cosiddetta coalizione Giamaica, per via dei colori dei tre partiti, giallo, verde e nero, ma che è un totale esperimento che non si sa neppure se riuscirà. Ecco, su questo tema, Paolo, c'è un altro fronte in America. Sappiamo che Trump ha avuto un rapporto difficile con la Merkel. Certo, sentivo quello che hai detto prima, e in questo augurio che le ha fatto Trump c'è un po' di perfidia, tutto sommato. Che la Merkel sia stata un po' bastonata dal risultato elettorale, secondo me, come hai detto tu, sono d'accordo con te, non gli dispiace molto. Ecco, e soprattutto può rafforzare invece quel rapporto che Trump ha sviluppato con Macron. Può rafforzare il rapporto con Macron. Tieni presente che però Macron dell'indebolimento della Merkel non è affatto contento, perché rischia di tarpargli le ali. Una Merkel indebolita significa che abbiamo una Germania meno disponibile ad andare incontro a Macron e sui piani di rilancio dell'Europa. Ecco, e questo è un altro tema chiave, i piani di rilancio dell'Europa. Questo è un tema fondamentale per l'America, anche se Trump qualche volta dice io preferisco l'Europa delle nazioni che l'Europa di Bruxelles. In realtà poi si ha capito che un'Europa forte può portare una crescita che aiuta anche l'America. Di nuovo, dal punto di vista americano, quali sono gli impatti su un'Europa più forte, dal punto di vista economico, per l'unione fiscale, per esempio, con questo risultato tedesco? L'unione fiscale sarà più difficile, non c'è dubbio. Sarà più difficile il bilancio comune dell'Eurozona, sarà più difficile il ministro delle finanze comune a cui pensa Macron, perché la Merkel dovrà fare i conti con un alleato, nella fattispecie i liberali, che su queste cose non ci sentono, quindi la Merkel avrà difficoltà. Ecco, su un piano più transatlantico, questo rafforzamento della destra ha sorpreso e preoccupa, devo dire. Su questo io non credo che ci saranno impatti significativi, perché esiste una maggioranza repubblicana al Bundestag che coinvolge più del 75% dei voti e dei seggi. che è salda sulle posizioni filoatlantiche, sulle posizioni internazionaliste della Germania. Quindi io su questo non credo che avremo nessuna sorpresa e nessuna conseguenza. Certo, la presenza di AfD, un partito xenofobo che gioca con addirittura l'eredità nazista, ricordiamoci che il suo capo ha detto che dovrebbero essere orgogliosi delle imprese dei soldati tedeschi nelle due guerre mondiali, una cosa allucinante. La presenza di AfD in Parlamento crea un clima avvelenato, crea un clima di polemiche, di contrapposizione violenta che rende, diciamo, normale discutere di cose che non dovrebbero neppure essere oggetto di discussione. Ecco Paolo, secondo te perché Donald Trump e Angela Merkel non si piacciono? Non si piacciono reciprocamente, ovviamente. Non si piacciono perché sono come l'acqua e l'olio. Lei è discreta, non ama le esternazioni roboanti, è noiosa nell'eloquio perché non prende mai una posizione emotiva, ma ragiona un po' da scienziata qual è. Lei è laureata in chimica. Trump è un uomo di guts, è un uomo di emozioni, è un uomo che ama le grandi sparate, le grandi piazzate. D'altra parte, la simpatia di Donald Trump per Macron è legata al fatto che non c'è dubbio che il leader francese sia un leader fiammeggiante, sia un leader estroverso. Anche se ovviamente diciamo, la profondità intellettuale di Macron, figlio dell'ENAE, delle grandi scuole francesi, non ha nulla a che vedere con la superficialità un po' ignorante di Donald Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre nuove frontiere inesplorate. Potrete continuare a trovarle su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Paolo Valentino, sempre con me ai microfoni di America 24. Cosa scegliamo? Mario, direi che la scelta è obbligata. Marlene Dietrich, una donna fra due mondi, nata in Germania ma diventata una stella anche in America. Where have all the flowers gone? Fantastico, un'interpretazione unica di un classico di Woody Guthrie americano, una canzone pacifista interpretata da Marlene Dietrich. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!